Beh, ovviamente questa serata vuole essere fondamentalmente una festa. Ovviamente rifacendosi all'evento del 79, perché quello comunque è stato l'evento che ha segnato una sorta di sliding door, nel senso che grazie a quell'evento e dopo quell'evento un po' Bologna sicuramente, ma anche il resto dell'Italia in qualche maniera ha preso coscienza che c'era una scena rock che stava italiana, che stava crescendo e nascendo, e poi si è sviluppata in tutte le cose che sono successe dopo. Però quel 2 aprile del 79 è stato veramente un momento molto importante per tutti, per le band, perché hanno preso coscienza del fatto che potevano effettivamente forse vivere di musica. Per noi che l'avevamo organizzato, che poi ci siamo organizzati per diventare una vera etichetta indipendente E italiana, vivere di musica? E vivere in qualche sì, vivere di musica, perché alla certo, fine. No, insomma, non è che bisogna per forza solo suonare. No? Esattamente, ci vogliono anche quelli che che organizzano, dietro, stampano. Ma sono fondamentali, direi. Sì, oggi forse non è così fondamentale, ma una volta era veramente molto decisiva la cosa. E quindi, dato che io però non volevo fare una roba tra virgolette eccessivamente nostalgica, anche se è inevitabile che ovviamente un po' di nostalgia, qualche lacrima, quel sentimento ci sarà, però cercando un po' di variare i temi, di creare delle situazioni leggermente diverse da quelle dell'originale, anche se il fulcro appunto in questo caso saranno gli Schiantos, che allora, come probabilmente molti ricorderanno, non suonarono praticamente una nota sul palco perché salirono solo per cucinare gli spaghetti. E da qui. E questi qua li abbiamo in sottofondo, a proposito di spaghetti, anche perché c'è un sottotitolo in quello, questa infatti, manifestazione. È quello che abbiamo detto prima, il sottotitolo, sì. Quindi da qui si capisce. E, per cui. L'altra volta non hanno suonato per cucinare gli spaghetti, questa volta suoneranno, non si limiteranno soltanto a dire qualche cosa di provocatorio dal palco, come poi effettivamente è successo con allora, e verso il pubblico ovviamente, che in quel momento era il loro bersaglio preferito. Ma lo sarà anche questa volta, lo immagino, sarà un po' dai. Meno, però sì, sicuramente lo sarà anche questa volta, ormai è la cifra che li contraddistingue. Però è ovvio che, non essendoci più Roberto, che era in qualche maniera il non essendoci più Roberto da un punto di vista, e Stefano e Andrea e Jimmy Bellafronte e Stefano Sbarbo Cavedoni che davano manforte a Fricche in quella situazione, è ovvio che mancando loro la musica ha preso comunque il sopravvento, anche se la musica poi è... Però ci sarà una cosa molto divertente sulla musica che vi dirò dopo. Ok, allora, già che parliamo di questo, quali sono le band che c'erano allora e che ci saranno anche sabato? Allora, le band che c'erano allora e che ci saranno anche sabato gli sono Schiantos, i Wind Open e i Confusion Quartet. Beh, mi sembra un ottimo trittico. Con alcune caratteristiche, insomma, interessanti, nel senso che i Confusion Quartet hanno continuato a fare concerti, ne stanno facendo ancora, anche andando all'estero in quest'ultimo periodo. C'è una seconda giovinezza, secondo me, o terza, dipende da. Fanno un set molto energico, molto consistente, per cui sicuramente non deluderanno nonostante gli anni che sono passati comunque anche per loro. Però io certo. Personalmente, per esempio, dico sempre a tutti che forse esprimono più energia adesso di quando non erano giovani nel loro concerto, che quindi insomma mi sembra comunque interessante. E invece c'è la reunion dei Wind Open, è quella per, ad esempio, per me molto molto attesa, perché dopo averli visti in quel piccolo anticipo assaggio, piccolo acconto, esatto, diciamo, della loro esibizione a Gallery 16 quando la mostra era ancora in corso, diciamo che mi hanno fatto proprio venire voglia di vedere un concerto vero, come sarà sabato. Sì, sarà sabato, tra l'altro non è ancora certo al 100%, dipende dagli orari, però con loro dovrebbe suonare anche Federico Poggipollini come ospite special, esatto, guest. E quindi sì, sicuramente il loro set sarà uno di quelli più attesi e da fruire in maniera allegra e divertente. E però oltre a questi tre originali, ovviamente la line-up è arricchita da tutta una serie di altri musicisti che in qualche maniera possono avere un riferimento culturale o quant'altro con il Bologna Rock di allora. Sì, beh, quelli più legati al Bologna Rock di allora sono sicuramente Johnson Righiera, perché gli Scantos suonarono nel suo primo singolo che facciamo noi, e ci sarà quindi Johnson Righiera, ma suonerà canterà sia con gli Scantos, ma che farà un pezzo con i Confusional Quartet. Perché questa è una novità perché i Confusional Quartet registrarono le basi musicali che all'epoca Johnson utilizzava per andare a fare le sue prime esibizioni dal vivo, che le faceva ovviamente con le basi registrate cantando lui. E c'è un pezzo in particolare che tutti quanti ricordiamo perché era veramente molto intrigante, che si intitola Clonazione Jegge. Già solo il titolo, no? Sì, è molto divertente. Per cui Jegge, ricordiamo un vecchio ballo, no? Esatto. Chi era la Carrà? Chi era che faceva? Pavone. È vero. E per cui ci sarà questa cosa che sarà molto carina, secondo me. Poi ci sono altri ospiti che c'entrano e non c'entrano, però era un po'. Ci saranno le Sbarbine, ad esempio, che sono un gruppo di ragazzine di Genova che fanno qualche cover degli Scantos. Beh, se si chiamano Sbarbine e sono di Genova, evidentemente gli Scantos li hanno ascoltati. Ma tu, a che ora inizia? Visto che ce l'hanno chiesto. Sì, perché allora, il cartellone è veramente ricco. Sì, no? È ricco. Allora inizieremo attorno alle 8, ovviamente, 8 e un quarto, non credo di più. Il primo set saranno, insomma, saranno quelli più semplici da portare avanti. Per invitare la gente a venire non solo a vedere gli Scantos, o i Wind Open, ovviamente chi arriva prima, ci saranno, ho allestito una serie di ricchi premi e cotillons che saranno regalati a tutti i primi che arrivano, e tra i premi e cotillons ci sono vecchi CD, qualche LP in vinile. Devi svuotare la cantina, bravo. Però la cantina di Oderso è molto interessante la cantina di Oderso. Ci sono bottiglie di vino vuote? Ci sono anche quelle, ma poche. A questo proposito ricordiamo, anzi lo lanciamo da questo momento, che anche noi, vista la presenza di Oderso, abbiamo due cose da regalare per questo concerto. Abbiamo due ingressi da regalare a questo concerto di sabato al TPO. Ai primi due, questa è la nostra modalità solita, che manderanno il loro nome e cognome al 333 180 9494. Quindi, se siete interessati, ma solo fino a quando Oderso è qui, dopo non vale più la cosa. Cioè, proprio la sua presenza che materializza questi biglietti. È un'anticipazione rispetto ai nostri orari, dove regaliamo biglietti, che ci saranno anche altre cose. Certo. Però due omaggi li abbiamo per la serata di sabato, e quindi inizia alle 20, non si sa che ora finisce. Questo è ovvio. Temo che la fine sarà tarda. Tarda notte. Diciamo che noi abbiamo pensato che gli Scantos inizieranno attorno a mezzanotte più o meno. Un orario normale per un concerto adesso che iniziano tutti. D'altra parte, lì poi hanno tutti fretta ad andare a letto. Però è sabato sera, è una festa. Esatto, non è tanto un festival di quelli dove c'è il cartello ore 20 e 11 inizia questo, ore 21 è una festa, e quindi come tale non è che la possiamo reggimentare più di tanto, no? Certo. Poi volevo segnalare una presenza che si è aggiunta quasi all'ultimo momento, che farà una cosa molto breve, piccolina, che si chiama Franco Nerolo. E chi è Franco? Che è un artista, è un artista trap neomelodico. Queste due parole insieme Esatto, sono inquietanti. Sono, no? Inquietanti. Però chi ovviamente, te presentato? Ovviamente è una grande presa in giro, ironica, tra virgolette, cioè. Però è molto divertente. È un video che dura 2 minuti, quindi sarà un video? Sì, è un video. Poi ci sarà anche lui fisicamente in persona, non posso dire chi è perché ovviamente dietro. Però siamo nell'ambito della trap demenziale. Bravo Andrea. Esatto. Il filone prosegue. E l'altra cosa che posso così anticipare, che comunque sarà divertente, è che forse qualcuno avrà avuto occasione di, vedendo i servizi che hanno fatto in televisione, di vedere che nell'incontro delle sardine a Rimini, a un certo punto è stato intonato "mi piacciono le sbarbine o mi piacciono le sardine", no, "mi piacciono le sardine", loro certo. Però sulla canzone di "mi piacciono", e quindi dal vivo gli Skiantos questa canzone la faranno. Questa è un'altra anticipazione. Mamma mia, ascolta, tienene ancora qualcuna per dopo che ascoltiamo qualcosa nel frattempo. Ascoltiamo qualcosa, io intanto avevo anche gli Skiantos, che sono questa musica mentre qua preparano gli spaghetti al Bologna Rock. Però volevamo mettiamo qualcosa dei Wind Open e poi vedremo di chiudere con gli Skiantos. E diciamo, dalla prima cassetta è unica cassetta dei Wind Open, che adesso però è però anche vinile, disco, adesso, esatto. Adesso anche vinile, tra l'altro ci sarà un ricco banchetto di tutte queste vecchie cose. E devo dire che il vinile oltretutto restituisce dignità alla vecchia cassetta, e questa è Stratham. Strazzam e i Wind Open che vedremo sabato sera al TPO in questa festa che celebra il Bologna Rock. E ciao Angela, Andrea, Oderso, ho vinto un ingrasso per il concerto. Beh, l'ingrasso ci sta, sarà il correttore Alfio, oppure l'ha fatto in maniera giustamente volontaria, perché ci sta, no? Assolutamente, quindi Alfio è un po' demenziale. Alfio ha vinto. Alfio è uno dei primi vincitori dei due, no? Abbiamo, due ne abbiamo, sì. Due omaggi per il concerto di sabato sera al TPO, dove si celebrano i 40 anni, mi scappa sempre 50, ma 50 lo diremo fra 10 anni, del Bologna Rock. E appunto abbiamo sentito anche la platea, diciamo platea dei partecipanti, e ci sono appunto nomi gloriosi di quel famoso concerto, tra i quali i Wind Open che abbiamo appena riascoltato, e che è, diciamo, la seconda volta che reinforcano gli strumenti, perché c'è stato quell'episodio quest'estate, un'estate caldissima oltretutto, no? Dentro in un posto luogo chiuso, esatto, piccolissimo, però affollatissimo, di gente entusiasta, dimagrita, gente che è arrivata lì che era 140 kg e uscita che serviva a quello, serviva sì, ed quello è stato benefico. Beh, ci vogliono anche questi aspetti, certo, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, lo dico io, no, in tutte le cose. Ricordo che con i Wind Open suona Roberto Terzani, sì, certo, che era uno di quelli che più aveva, però appena anche lui lo metti sul palco non lo togli più di lì, più o meno. Beh, lui di musica ha sempre vissuto, voglio dire. No, però mi ricordo che quando vennero qua i Wind Open per presentare il disco, la ristampa, lui non c'era, no? Però a microfoni spenti dicevano: ma Roberto non se la sente, non sa se ci arriva con la voce, non è più quello di una volta, no, bla, invece bla, no. Bla, bla, invece bla, bla, no. E poi alla fine io non c'ero quella sera lì alla galleria. Però Angela, sì, ma erano tutti timori ovviamente che non dovevano nemmeno esistere nella sua testa, però lui non se la sentiva, aveva paura, eccetera eccetera. Poi superata, cioè abbiamo fatto fatica a convincerlo, devo dire. Però no, poi no, è venuto a fare una prova a Bologna e lì ha capito che allora che era sì. Che era deve essere stato sì faticoso, perché mi ricordo che comunque quelli dei Wind Open che erano qua a presentare il disco, tutti quanti lo davano, come dire, per certo che non sarebbe mai no, salito. Diciamo sul che erano molto molto molto dubbiosi. Sì. Erano dubbiosi, esatto. Dubbiosi, però alla fine lui poi quella sera comunque, voglio dire, non ha mostrato segni di assolutamente, cioè sembrava che i Wind Open avessero più o meno sempre suonato, insomma. Se ne doveva mentalmente convincere, esatto, cioè non c'è, anzi lui è stato il frontman quella sera, il vero leader, era lui che parlava, sì, che sì. Raccontava insomma era sì perfetta. Sembrava, cioè non sembrava uno che non ne volesse, no, ma assolutamente uno che assolutamente. Da anni ne vuole a pacchi, esattamente. E del resto la musica, come c'è scritto Cico, è Gero Vital per tutti noi. D'altra parte un pochino è anche quasi vero da un certo punto di vista, perché insomma ovviamente le nuove generazioni non hanno solo la musica per diventare grandi, ma hanno tante altre cose, tante altre distrazioni, in cui la musica per quelli delle nostre generazioni aveva un senso molto più intenso, sì, diciamo sì, così. È vero, oggi ci sono anche altre cose, però vabbè. Bene, e cosa possiamo altro aggiungere? Ma sulla io tra serata gli altri di sabato? Ospiti vorrei, mi sento di citare Giorgio Cavalli, certo, che ha fatto parte poi per un certo periodo anche lui degli Schiantos, un breve periodo, però c'è stato, che è un bravissimo chitarrista, bluesman, che tra l'altro sta attraversando un periodo di salute non felicissimo, per cui mi faceva piacere condividere. Ci vuole un po' di Gero Vital in sì, questo caso. Esattamente. E poi ci saranno due cose un po' strane alla situazione di Bologna, che sono i Camillas e un Naretto, però i Camillas ci sarà, si sta Nevruz anche. E poi ci sarà Nevruz, perché questo lo tenevo alla fine, perché ovviamente ah ok scusa ah, no abbiamo tolto, tanto ormai siamo alla fine, quindi. No non c'è problema, no, perché Nevruz in quest'ultimo periodo spesso e volentieri, no, direi sempre, fa da ospite ai concerti degli Schiantos cantando con loro alcuni pezzi degli Schiantos. Io l'ho visto in duo con Fabio Testoni, e molto interessante come duo. Lui canta benissimo i pezzi degli Schiantos. No, lui canta molto bene, ha una per fortuna, perché sai, il problema di andare a cantare con gli Schiantos è quello che non devi imitare Freak. Esatto. Devi mettere la tua personalità e devi far venire fuori quello, come Omar Pedrini, che è un altro che ci sarà anche lui, che ha fatto da ospite in qualche concerto degli Schiantos, e anche lui quando canta alcuni pezzi degli Schiantos è lui, è Omar. Certo. Non è Freak, non è Omar che cerca di imitare Freak, ma è Omar, è uguale Nevruth, anzi Nevruth forse ancora più spinto da questo punto di vista. Ci sarà anche il gruppo di Nevruth da soli prima, che faranno anche loro. Ci sarà di tutto, ma vi rendete conto? Cioè, man mano che scorre il tempo aumentano. Ci sarà anche da mangiare, spero, appunto, gli spaghetti, sì, perché sennò. Sì, ci saranno sicura. E io, tra l'altro, spero, adesso non ci stiamo ragionando, ma mi piacerebbe che alla fine, quando anche gli Schiantos avranno fatto tutto il loro concerto, riusciamo a fare una sorta di jam session con tutti i musicisti sul palco. Vediamo. Allora, capito. Ci proviamo. Cioè, ma se uno. L'importante è che finiamo per lunedì mattina, che la gente deve tornare a lavorare. Sì. finiremo, però questo è l'importante. La cosa più importante sarà che ci divertiamo, che stiamo bene. Va bene, forse era meglio cominciare alle 2 del pomeriggio. Lo so, però, No, troppo lunga. No, però c'ha un po' anche le caratteristiche del vero Bologna Rock, questa. Cioè, dal punto di vista di un sacco di gente e con tutto quello che possono essere gli imprevisti, bla bla bla bla, e l'atmosfera è bene o male riproposta 40 anni dopo. Questa è un po' l'impressione che abbiamo. Citiamo anche Lardo ai Giovani, che sarà presente. Sarà un'altra piccola presenza, che è questo gruppo che riunisce diversi artisti che si occupano di rock demenziale. Alberto Bertoli. E poi c'è Alberto Bertoli. C'è infinità, cioè, Alberto Bertoli però è ospite degli Schiantos, canterà un pezzo degli Schiantos con gli Schiantos. E quale pezzo potrebbe cantare Alberto Bertoli degli Schiantos? Guarda, ce l'ho. Però non oso dirlo. Non lo diciamo. Esatto. Non lo diciamo, però sarà quello. Va bene. Quindi poi forse qualche altra sorpresa che non sai neanche tu, probabilmente. No, uno che non so neanche io, due che non posso annunciare, ovviamente, perché sennò ci sarebbero dei problemi di carattere legati alle agenzie che non vogliono che vengano annunciati, perché magari fra un po' fanno un concerto a Bologna, per cui ci saranno una situazione sicuramente, ma forse due che verranno Cremonini senza essere annunciati. No, Cremonini no. Lui rimane in via d'Azeglio, Cremonini deve cantare fino al 6 gennaio, quindi è chiaro che tutte queste persone che abbiamo detto non è che hanno ognuna uno slot, come dicevi, perché stiamo parlando di anche ben che si formano, sì. No? Cioè, ma uno va a cantare con quell'altro, quello va a suonare con il terzo, quindi insomma è proprio variabile la cosa, ma era giusto citare tutti i nomi che è possibile citare per far capire alle persone che sarà un vero e proprio evento. Io uso poco questo termine, che non amo, ma in questo caso secondo me è spendibile. Tu cosa dici, Andrea? Spendibilissimo. Va bene, allora, bene, direi che abbiamo. Vi aspettiamo tutti al TPO sabato sera, venite presto, perché così avrete un dalle mani dirette di Oderso sarà omaggio. Ve ne dico solo uno degli omaggi è Virus degli singolo Virus degli Schiantos. Ah, però. Cioè, quindi non è che stiamo parlando di pizza e fichi, eh? No, sì, c'è anche rarità. Ci sono dei CD degli Splatterpink. Ah, che insomma, Splatterpink non hanno fatto ciao parte. Diego. Ciao Diego, esatto. E altre cose del genere, quindi ce ne sono un tot. Bene. A esaurimento scorte, quindi. Quindi i primi godranno, gli altri. Sì. Esatto, quindi senza. Alle 8 tutti lì. Tutti lì, e mi raccomando che c'è da svuotare la cantina di Oderso. E non è una brutta cantina. E non è una brutta cantina, infatti. Va bene. Noi abbiamo ancora un omaggio, mi sembra, adesso devo guardare un po', per la serata di sabato. Lo so che molti stanno aspettando di capire quali omaggi andremo a dare dopo per la Fonte dell'Oro, e quindi ci sono diversi concerti come al solito nel fine settimana, però uno ne abbiamo ancora per questo Bologna Rock 40 anni dopo al TPO sabato sera. Se siete interessati, nome e cognome al 333 189 494. Intanto Alfio se ne è già preso uno. Bene, allora noi concludiamo questo spazio dedicato al Bologna Rock di sabato e ringraziamo Oderso Rubini per essere stato qui con noi a raccontarcelo nei dettagli, perché ovviamente noi tutte queste cose non le sapevamo, e se eravamo interessati prima, adesso sicuramente non mancheremo dall'inizio della serata. Non possiamo metterci in mutua. Però possiamo ascoltare gli Skiantos. Esatto, chiudiamo con la mitica Eptadone. Grazie Oderso. Grazie a tutti. Ci vediamo voi fra qualche settimana, perché qualche altra... avrà qualche altra cosa da raccontarci su qualche nuovo evento che sta per una organizzare. Qualche ristampa, qualcosa, c'è sempre Oderso, se no alla fine andiamo a ripiegare sulle ocarine di Budrio, che è un tema che tu hai trattato insomma, alla fine. L'ha trattato parecchio, no, con notevoli risultati. E poi non dimenticate l'Osteria del Mandolino, che è un progetto di musica da osteria, da Filuzzi, che è il liscio bolognese, all'interno del quale c'era anche il figlio di Leonildo Marcheselli, Marco Marcheselli, che poi ha fatto parte di tanti gruppi rock degli anni 60, di alcuni gruppi rock, e ha collaborato anche con Marco Bertoni e Enrico Serotti, con il quale abbiamo vinto il premio Città di Imola. Mica una cosa da poco. Allora, che probabilmente sarà tra gli omaggi per i primi che arriveranno sabato sera. No, questo no. Va bene. Buona la biga. Ciao adesso, ciao a tutti, grazie. Ciao. Vabbè, sono in paradora. Ok, nessun problema, ragazzi. Nessun problema. Sbarbi, sono in paradora. Schiodiamoci. C'hai della merda. Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca. Oh, c'hai della merda, no? Ma che viaggio ti fai? Intrippato. Brutta storia, ragazzi. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9!